Francamente mi sono trovato imbarazzato a essere interprete e valutare un'area a cui non sono abituato, fermato come sono un po' l'angolatura teologica e più specificamente biblica. E ringrazio il Signore della fatica che mi è venuta, non so se tornerà anche proficua per loro. E vorrei fare tre tipi di rilievo, di contributo intorno a questo libro che ho letto. Il primo, dire in che senso mi ha interessato. Non è un senso critico assoluto, perché, ripeto, sono scolaro di questa scuola. Sono state soprattutto tre aree principali del libro che mi hanno più colpito e che amo ricordare a utilità anche dei non addetti ai lavori in modo specifico. Cioè, ho trovato dentro a questa panoramica molto ampia che per me, almeno in quanto biblista, teologo e in quanto credente di questo tempo, questo nostro tempo, che poi sempre più mi dà il senso, forse con Santo Jacopo posso domarchi, mi dà sempre più per l'esperienza che faccio di altro tipo, il senso di essere dentro una cultura dignitosa dalla lunga storia, ma anche circoscritta e che ha bisogno per arricchirsi anche di un dialogo interreligioso, interculturale più ampio. Non per impoverirsi, ma per essere, trovare una complementarietà che nel suo piccolo mondo rischierebbe forse di diventare povera. Ecco, dentro a questa e in questi atteggiamenti e dentro a questo orizzonte, le tre aree che più mi hanno colpito e che personalmente intanto segnalo sono, primo, la interpretazione del tipo di ateismo che vive l'uomo contemporaneo nei due interventi di Gianfranco Morra e di Martelli. Secondo, poi dico una parola, la ricerca dei valori che motivano la società contemporanea e di cui essa avverte la necessità in questo trapasso culturale, così mi pare di riassumere la seconda area e pregio e utilità che ho tratto dal libro. Terzo, le nuove tendenze religiose e la loro identità territoriale in Italia, con particolare riferimento ai due territori del Triveneto e del Trentino Alto Adige nei due ultimi interventi. Ma insieme anche l'intervento di Garelli e di Pace, oltre che, ripeto, quelli di Giuliati e di Capraro. Per quanto riguarda il primo aspetto, ma solo per un accenno, mi ha colpito in particolare, traduco così perché non ho coraggio di valutare di più, non è onesto da parte mia, mi ha colpito a proposito dell'ateismo dell'uomo postmoderno, come può essere in qualche modo qualificato, in particolare l'articolo di Stefano Martelli, per più ragioni. Anzitutto per quella domanda che ha posto, che per me è più significativo che non fosse una conclusione, laddove dice se questa mutazione antropologica verso l'ateismo contemporaneo è stabile, cioè sta nascendo l'homo a-religiosus, per esprimere con la sua frase, oppure si interroga, ma propende per questa seconda posizione, oppure questo quarto uomo della posizione che ha anche il Gianfranco Morra, oppure questo quarto uomo è un tipo antropologicamente instabile ed effimero. Non è una domanda oziosa, perché pone già, mi pare, un'attenzione particolare in questa desecolarizzazione o altri termini che vengono usati intorno allo sguardo sul futuro. Insomma, quale progetto futuro nasce anche dalla considerazione di questa quarta avventura dell'uomo moderno o postmoderno? La secolarizzazione, afferma Martelli, appartiene alla fase decadente della modernità. Naturalmente sono molte più le sue considerazioni, ma colgo questa nota che mi pare significativa da leggere nell'insieme del suo intervento. Il secondo elemento, li richiamo soltanto in maniera così affrettata, secondo ambito che ho apprezzato di questo libro, la ricerca attuale dei valori. Mi ha anche pure molto colpito, traduco così, nei tre interventi che almeno io così ho coordinato, quello del professor Bulgalassi, quello di Pierpaolo Donati e anche la ipotesi o il problema che ha posto Guizzardi, Gustavo Guizzardi. Di Sivan Bulgalassi ho apprezzato e ho goduto sul versante della reazione teologica, se si vuole, ho apprezzato molto questo porsi umilmente davanti all'interrogativo su quali valori effettivamente stanno motivando l'uomo d'oggi. È forse uno dei nuclei più drammatici, almeno così lo colgo, dell'uomo contemporaneo, dove sta motivando i suoi impegni e i suoi turni anche radicali nella storia personale e nel turno che vive nella storia. E osserva, con una corretta, mi pare, disciplina e esperienza, il professor Bulgalassi, che tale ricerca circa i valori è sempre da fare con un senso di rispetto e di riserva sul decidere quali sono prioritari e quanto possono essere decisivi questi valori. In particolare sottolinea i valori che appaiono, o meglio, le caratteristiche essenziali di valore risultano essere due, dice a un certo momento, e cioè il richiamo a ideali forti e la forza autoritaria che essi, almeno temporaneamente, mi pare così di trarre, possono offrire per motivare nel proprio turno. Il successivo intervento, o l'altro intervento del professor Donati sulla religione, le nuove frontiere dell'etica, riprendono un po' questa riflessione su come l'etica si motiva e in quali ambiti si manifesta il problema etico oggi. E un caso particolare di questa ricerca è quella toccata poi dal professor Guizzardi quando si chiede chi è in actu exercitu, come può essere lo specialista della bioetica, a quali riferimenti può appoggiarsi per motivarsi seriamente sulle scelte gravi che deve compiere. Il terzo capitolo o ambito che ancora di più in qualche modo, ma per forse ragioni più di appartenenza al nord-est, forse sarà per questo, e quindi di sintonia che mi ha attratto, sono le indicazioni circa le nuove tendenze religiose in Italia, che ho goduto anche di sorprese, che poi ho visto erano presenti anche altrove, già per gli accenti di Franco Garelli, o almeno le indicazioni a livello nazionale, e di Enzo Pace per un filone di questo, il manifestarsi religioso. Ma poi dei due nostri amici, anche dell'Istituto di Trento e anche di Padova, cioè Paolo Giuliati e Giuseppe Capraro. Anche devo dire, e ho colto con simpatia, che ambedue si rifanno al grande patriarca della sociologia triveneta, cioè il professor De Marchi. E quello che mi pare di sottolineare, che segnalo. I due patriarchi, no, mi scusi. Triveneta e italiano. Sì. Quello che mi permetto così di cogliere dai loro interventi e che rinvio, così come segnalazione. Innanzitutto i problemi che interpellano, scrive Giuliati, nella sua ampia documentatissima lettura del Triveneto, del Nord-Est, i problemi che stanno interpellando il presente, che certo al teologo, all'operatore della riflessione teologica, come dopo ricorderò, sono preziosi da aver presenti. L'irreversibile cambiamento, la società policentrica, la compresenza di tradizioni e novità che rendono appunto complessa, come ripetutamente i maestri della sociologia della religione l'hanno detto anche oggi. E poi alcuni modelli interpretativi del Nord-Est che appunto lui elenca il qui e subito, la ruralità coniugata con altre dimensioni nuove che appaiono. E del professor Capraro ho riportato l'insieme di questa lettura attraverso la situazione del Trentino Alto Adige, specialmente in quegli accenti che erano già dei Garelli, di fare l'ipotesi tra una religiosità di maggioranza e una di minoranza, che certo alla teologia, alla ecclesiologia penso, e alla pastorale non è secondario tener presente, per non fare superficialmente o liquidare il presente con sfiducia, oppure l'assumere in maniera generica, non rispettando ormai questa distinzione. Ma è una sola tra i molti elementi che, aprendo l'intervento del professor Capraro, potrebbero essere colti. Specialmente quella richiesta che il professor De Marchi gli faceva della necessità di una dimensione, di un momento mediativo tra la sapienza perenne e la problematica di ogni giorno. Ho voluto solo personalmente dire le reazioni, non escludendo altre relazioni, ma che immediatamente mi hanno sollecitato un esperto di quest'area. Il secondo tipo di contributo che mi permetto di dare, un po' connesso con la giornata, è di un po' di riflessione anche qui davanti a un pubblico un po' più completo, più vario, di quello che per me è il frutto che porto via da questa esperienza. Poi non vivo troglodita dentro le caverne, ma che ho tratto con tanta ricchezza. Cioè, mi pare che nella varietà degli accenti, dei criteri di lettura tra teologia e sociologia, quali adesso state anche richiamati dal professor De Marchi, nella varietà di questi accenti e di criteri, la complementarietà, la corrispondenza, il contributo reciproco sono fortemente sollecitanti e importanti oggi, specialmente davanti al presente e al futuro di questa realtà. E allora, semplificando, mi pare di cogliere questo. Per il teologo, di fronte ai contributi della ricerca sociologica che ho compreso, per il teologo e per le teologie, e forse non solo per le teologie, un prezioso aiuto viene dato dal mondo della sociologia e della religione, un prezioso aiuto per accostare la realtà sociale con rispetto della sua effettiva identità. La voglia di teorizzare subito e di trarre i massimi sistemi è un'insidia cattiva anche della teologia, una brutta tentazione. E in questo modo mi sono trovato improvvisamente nel mio mondo, piccolo mondo biblico, in cui mi ha fatto pensare al dialogo uno ad uno con cui è nato il cristianesimo. È interessante ricordare come non c'è nessuno che sia approdato a Gesù in maniera collettiva, almeno stando ai Vangeli. C'è sempre un uno a uno e c'è un episodio personale che lo porta dentro alla storia dell'incontro con Cristo. E quando Paolo rievocherà il suo ministero, per esempio nella lettera ai Tessalonicesi, il primo ricordo che fa della sua missione, vi ricordate come uno a uno, notte e giorno, ho cercato di ragioni. Il cristianesimo è nato così. E ho sentito da questa lezione della sociologia religiosa un maggior rispetto prima di teorizzare e catalogare in fretta le situazioni dell'uomo. Un secondo frutto, mi pare di aver raccolto, è un avvertimento circa la complessità contro appunto la tentazione semplificante, e anche di più mi pareva di cogliere leggendo il libro e oggi ascoltando i maestri della sociologia religiosa, cioè che l'uomo non è solo della sociologia, ma mi è stato reso evidente il modo con cui viene accostato l'uomo dalla metodologia della sociologia religiosa è un accostarlo non solo al suo livello cosciente ed esperienziale, ma anche vicino a quelle opzioni indirette collettive che formano il tessuto culturale di un'epoca. Anche questo mi pare importante riportare dall'esame, dall'incontro che ho fatto. Timidamente, e non certo con la presunzione di essere il teologo adesso, al sociologo della religione, il teologo, qualcosa dicevo anche oggi pomeriggio, il teologo ritiene di segnalare tra i suoi criteri di lettura e di approccio alla realtà un primo dato, il rispetto per la imprevedibilità dell'uomo, che fa guardare sempre con l'ipotesi di non averlo capito. Non è una lezione, dico quella che è, quello che può essere un criterio fondamentale, l'imprevedibilità dell'uomo e della sua libertà personale o collettiva e collettiva. Specialmente quando il gioco, come entriamo nel mondo della rivelazione biblica, il gioco è effettivamente tra uomo e Dio. E quando Dio non è solo l'oggetto, ma l'interlocutore dell'uomo. Noi avvertiamo sul versante teologico di segnalare questo senso di estremo rispetto che richiede, almeno il metodo teologico, lo richiederebbe. Seconda indicazione, il tenere aperta, come è stata più volte richiamata dai professori oggi, il tenere aperta l'ipotesi del kairos nel suo senso originario biblico. Quel kairos che nel senso appunto neotestamentario è la sorpresa di Dio dentro la storia degli uomini. Un Dio che ama l'uomo gratuitamente e lo vuole recuperabile nei limiti della sua libertà. Un terzo ultimo ambito, che mi pare così, che può diventare di comune criterio, la religione cristiana, nella sua edizione cristiana, ha verso il futuro, guarda verso il futuro, più stimando gli attori, lo dicevo oggi, più stimando gli attori piccoli e anonimi che non i grandi protagonisti che tentano di firmarla. Pare che sia uno dei criteri irrinunciabili, perlomeno della teologia, e credo senz'altro, in un modo o nell'altro, anche nel metodo sociologico religioso sia presente. I grandi attori passano presto, c'è come un senso, non dico di disprezzo, ma di non grande rilievo dato ai protagonisti che firmano la storia, mentre a questi fermenti e tutta la criteriologia evangelica viene dato molto più spazio. Concluderei con un'ultima riflessione. Mi pare che allora, alla luce di quanto ho letto, ciò che aiuta questo libro è passare dalla situazione socioculturale che è modificata, o almeno introduce, dalla situazione socioculturale che ormai si è modificata, lasciatemi dire così, col linguaggio della professione biblica, ai volti di Dio e dell'uomo da ricomprendere. Una teologia, certo, avrebbe gran vantaggio da questo dialogo, da questi avvertimenti, anche delle competenze della sociologia religiosa. Certo, vedo a questo riguardo, vedo un'analogia profonda, di nuovo, tra l'attuale esperienza fotografata e ripresa nel libro in questione e ciò che in qualche modo era presente già nella tradizione biblica e poi delle chiese apostoliche, che non si è mai definita la realtà, ma se ne cercano dei lineamenti e si è continuamente in ricerca per rispettarne la vera dignità. Grazie.